Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Taglio con mano spada, con mano spada Salema. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Saglio con mano scala, con mano scala la verità. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Senza pietà viene ma fa pietà, spiezza sto cuore mi dà, come la mela, manca un serpente tena, tutto sto veleno in cuore. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma, una mano mi fai bene, cucchellata mi fai torto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Senza pietà viene e mi fai innamorare, prima mi avvelenà. Senza pietà spiezza sto cuore mi dà, come la mela, manca un serpente tena, tutto sto veleno. Bella mia, bella mia, sienta a me chi t'ho fa chi le une mieza via sulla che la te porta. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ma. Mamma mia, mamma mia.